giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Se è vero che l'infiltrazione esisteva fin dai tempi dei babilonesi, è anche vero che in tutte le guerre tutti gli eserciti hanno attinto a piene mani al nemico vinto. E poi c'è da aggiungere una cosa. La collaborazione, la cosiddetta collaborazione, vale in quanto gli interlocutori che la raccolgono sono ben preparati, sono preparati a raccoglierne l'intera tematica per evitare o di lasciare spazi alla reticenza, alle omissioni, ai falsi. Pensava così il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, l'uomo che aveva sconfitto il terrorismo, l'investigatore che poi tentava di chiudere i conti per sempre con Cosa Nostra. Il 3 settembre 1982 cade di venerdì. A Palermo si mangia nei ristoranti, si passeggia lungo le vie del centro. Qualcuno è in coda davanti al botteghino del cinema che proietta film all'aperto e altri stanno seduti sulle panchine e si gustano granita e gelato. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa si trova a bordo di una A112. Viaggia insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro che conduce la vettura. L'agente di scorta, Domenico Russo, si trova poco dietro, alla guida di un'alfetta blindata. I sicari di Cosa Nostra sono in sella a due moto di grossa cilindrata. E ora si trovano in via Isidoro Carini, a pochi passi dal teatro Politeama. Affiancano la A112 e l'alfetta e colpiscono con i Kalashnikov. Carlo, Emanuela e Domenico vengono uccisi. Carlo Alberto Dalla Chiesa nasce a Saluzzo nel 1920. Figlio di un carabiniere, non frequenta l'accademia e passa nei corpi dello Stato come ufficiale di complemento allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. L'8 settembre 1943 passa con la Resistenza. Finita la guerra col grado di capitano, Dalla Chiesa si sposa con Doretta Fabbo, che gli darà tre figli, Nando, Rita e Simona. Nel 49 arriva in Sicilia, a Corleone. La mafia si sta organizzando e il movimento separatista è ancora forte. Il capitano Dalla Chiesa indaga su 74 omicidi, tra cui quello del sindacalista socialista Placido Rizzotto. In un rapporto indica in Luciano Liggio il responsabile di quell'omicidio. Ma poco dopo viene trasferito prima a Firenze, poi a Como e infine a Milano. Dal 63 è a Roma, poi raggiunge Torino. Sono proprio strani quei trasferimenti. Anni dopo il mistero sarà svelato. L'ordine di spostare Carlo Alberto Dalla Chiesa giunge dal generale Giovanni De Lorenzo. Lui organizza il piano solo, un tentativo di colpo di stato militare per impedire la formazione del primo governo di centro-sinistra. Ma il tentativo di golpe fortunatamente fallisce. Nel 1974 Carlo Alberto Dalla Chiesa è in Piemonte per reprimere la rivolta nel carcere di Alessandria sotto la direzione del procuratore Carlo Reviglio della Veneria. 7 morti, 14 feriti. A Torino crea il nucleo speciale antiterrorismo, struttura che gli consente di infiltrare nelle Brigate Rosse Silvano Girotto, frate Mitra. Nel 1975 arresta a Pinerolo Renato Curcio e Alberto Franceschini. Poco dopo il nucleo sarà smantellato. Dopo l'omicidio Moro, il ministro dell'interno Rognoni offre a Dalla Chiesa l'incarico di ricostituire i nuclei speciali. Porta a segno la cattura e il pentimento di Patrizio Peci e di Marco Barbone. È grande l'indignazione che corre lungo il paese dopo l'assassinio di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Del sentimento degli italiani si fa interprete quel giorno il cardinale Salvatore Pappalato. Il giorno dei solenni funerali. Dum Rome consumitur savuntum expugnatum. Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici. E questa volta non è Sagunto, ma Palermo. Povera la nostra Palermo! Per quell'omicidio negli anni si apriranno i processi. Due sicari, Vincenzo Galatolo e Nino Madonna, vengono condannati all'ergastolo. I pentiti e rei confessi Francesco Paolo Anselmo e Calogero Ganci riescono ad ottenere uno sconto di pena a 14 anni di reclusione. Davanti ad un'altra sezione di corte d'assise sono invece imputati, con rito abbreviato, Giuseppe Lucchese, Raffaele Ganci, altri componenti del comando mafioso. I mandanti della cupola invece saranno condannati nel maxi processo passato in giudicato nel 92. 22 anni dopo il delitto restano ancora molti misteri. Ad esempio, la cassaforte del prefetto viene violata e sparisce la chiave che riappare pochi giorni dopo. Chi l'ho vista la notte del 3 settembre dell'82 fra le carte del generale dalla chiesa? E che cosa c'è dentro in quella cassaforte? Chi sono le persone in borghese che entrano, prima dei magistrati, nelle stanze della residenza del prefetto a Villa Paino? E più in generale, perché Carlo Alberto dalla chiesa riuscì a sconfiggere il terrorismo, ma non ebbe il tempo di piegare la mafia? Nando dalla chiesa, figlio del generale. Credo che la ragione sia molto semplice. Il terrorismo era un fenomeno, un attacco avversivo che veniva dall'esterno dello Stato. E la mafia è un attacco avversivo che viene anche dall'interno delle istituzioni, perché questo è un dato storicamente scontato. La mafia ha rapporti con le istituzioni, li cerca, li coltiva. E quindi quando bisogna arrivare al dunque, se tagliare la testa o no, si è molto più prudenti, riluttanti, disponibili al compromesso che col terrorismo. Era rimasto scoperto sul piano politico Carlo Alberto dalla Chiesa a Palermo? Penso proprio di sì, questo d'altra parte lo lascia scritto lui nel suo diario, di essersi sentito solo, abbandonato. Poi ci sono uomini politici o pezzi del sistema politico che decidono di sostenerlo, però chi è abituato a sentirsi pienamente il governo dietro, come nell'epoca del terrorismo, passando da una situazione all'altra nel giro di pochi mesi, capisce benissimo la differenza e interpreta d'altra parte anche alcune interviste degli esponenti di rilievo del potere politico locale siciliano come delle dichiarazioni di guerra. Possiamo dire che Carlo Alberto dalla Chiesa è rimasto solo con le sue idee? Sì, ha pagato quel tipo di intreccio, sicuramente. È un intreccio che funzionava non soltanto in Sicilia, ma sull'asse Palermo-Roma, come ho sempre cercato di sostenere, con responsabilità diverse, però quell'intreccio non era soltanto siciliano. Cosa resta oggi dell'eredità di Carlo Alberto dalla Chiesa? Quello che resta anche dell'eredità di tanti altri che hanno cercato di far compiere all'Italia questo grande passaggio civile, liberarsi dalla mafia, cioè un invito a credere anche nello Stato di diritto, ad avere il coraggio di affrontare la mafia, la capacità di dare se stessi per le istituzioni. Questo è un messaggio che è sempre bello sentirsi dare, ma è meno retorico di quanto si possa immaginare. Se è vero che l'ex sindaco di Niscemi si rifiutò di scrivere sulla ricetta di una sua malata l'indirizzo in cui abitava perché era via Carlo Alberto dalla Chiesa, quindi in realtà rimane un odio profondo per chi si è battuto contro la mafia e il suo potere.